Giulietta, aiuta! In un amore da rockstar, per strada come rockstar, ci baceremo. Giulietta, aiuta! Beatstars.com. In un amore da rockstar, per strada come le rockstar, ci baceremo con tutti i contro io e te, persi nel vento. Ruggi via, ruggine, dolce violento, palpito, sesso e rock and roll, danzo estremo, incognita, giugna, sustagna, fumerò, rimami via, nemici al cerchio. Io sono il talento, ho venduto l'anima mia, una B con violino nero, tutto tu ricamo, ricamerò per te rime al veleno. Giulietta, io e te, bacio estremo, quando nessuno ci vuole assieme, io volo, in volo, ci incontreremo. Oltre la gravità di uno sporco denaro, che il nostro amore non comprerà, non avremo destino in vano. Giulietta, io e te, come rockstar, per strada come rockstar, ci baceremo in contromano con un mondo in vano. Ruggi via, ruggine, dolce violento, palpito, sesso e rock and roll, danzo estremo, malinconia, agnugna, sustagna, fuma, rimami via, nemici al terreno. Io sono il talento, ho venduto l'anima mia, una bicchia, un violino nero, il tuo tatuo ricamo, ricamerò per te rime al veleno. Giulietta, io e te, bacio estremo, quando nessuno ci vuole assieme, in volo, io volo, ci incontreremo, oltre la gravità di uno sporco denaro, che il nostro amore non comprerà, il nostro destino non sarà in vano, non sarà in vano. Giulietta, io e te, per strada come rosta, camminando come rockstar, per strada come rockstar, ci baceremo in contromano, contro vento, un mondo in vano. Ruggie via, ruggine, dolce violento, palpito, sesso e rock and roll, danzo estremo, malinconia, agnugna, sustagna, fuma, rimami via, nemici, alter ego. Io sono talento, ho venduto l'anima mia, una bic, un violino nero, il tuo tatuo ricamo, ricamerò per te rime al veleno. In volo ci incontreremo, un bacio estremo, in un amore rock and roll, noi bruceremo.